per paroledistorie.net. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Fiabe, favole, racconti, leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Sapo, pipa, cururù, detto il figlio del sole. Una fiaba dall'Amazzonia. Tra quelle fitte e rigogliose foreste, dove animali di innumerevoli specie e fiumi sinuosi che sembrano non avere fine, la grande e immensa Amazzonia racconta fiabe e leggende di straordinaria bellezza. Guerrieri che si trasformano in pesci o tigri, delfini, rosa che incantano donne e bambini, sirene di acqua dolce e addirittura un dio implacabile che protegge la foresta pluviale. Ebbene, noi in questa fiaba racconteremo di un animaletto, un piccolo essere comparso molto, molto tempo fa, quando ancora il tempo non aveva tempo, quando ancora l'uomo non c'era. Ed ecco che, nella palude grande della foresta amazzonica, viveva, tra i tanti animali, Sapo Pipa Cururù. Era un rospo verde, verde, a chiazze scuro scuro e squamoso e sbavoso, che assomigliava a un aquilone. Pipa, infatti, in portoghese significa aquilone. Sapo Pipa Cururù gracidava forte dalla mattina alla sera, senza mai riposarsi. Il suo canto avvolgeva tutta la grande palude, e quando il vento diventava più forte e piegava gli alberi, il canto del rospo usciva dalla palude, se ne andava a riempire la foresta. Spesso capitava che quando le nubi gonfiavano il cielo ed erano così nere, nere, pronte alla pioggia, il rospo Sapo Pipa Cururù pareva lo indovinasse prima del tempo, proprio come fosse un indovino. Perciò esso gonfiava le gote quasi fino a scoppiare e gracidava, gracidava, ancora più forte gracidava, svelando a tutti gli animali che tra qualche istante sarebbe piovuto. E poco dopo, infatti, la pioggia arrivava giù dal cielo. Ma non era una pioggerellina, era pioggia vera ed era tanta, tanta. Ora, bisogna dire che si trattava di una pura coincidenza, dato che il rospo gracidava per il semplice motivo di gracidare. Gli piaceva proprio, ecco. Era la sua natura. Ma poi gli animali della palude e della foresta iniziarono a pensare e a convincersi che il rospo Sapo Pipa Cururù, con quel suo gracidare forte, fosse davvero capace di far piovere e piovere assai, senza tregua. A forza di sentirselo dire, come spesso succede agli ingenui, Sapo Pipa Cururù si convinse di avere davvero dei poteri straordinari e magici, che fosse persino un mago dell'Amazzonia. Se c'ho il potere di comandare alla pioggia, devo essere proprio un figlio del sole, io. E cominciò a riflettere, pensare e convincersi, pieno di orgoglio e soddisfazione, e appena qualche animale, grande o piccolo che fosse, lo infastidiva, subito lui minacciava. Attento a quello che dice, amico. Guarda che posso scatenare una pioggia, diluvio, mi? che non finisce più, eh? Che non finisce più. Io qui vi faccio annegare tutti. Tutti gli animali si spaventarono, terrorizzati. Cominciarono a trattarlo con grande rispetto e riverenza per paura, cosicché gli portarono in dono mosche, vermicelli, farfalle, larve, zanzare e tante tante altre squisitezze. Ora accadde che, a furia di mangiare e mangiare e mangiare, Sapo Pipa Cururu era diventato un rospo grasso, troppo grasso, tondo, tondo, come una palla enorme, e tanto ingrassava tondo, tondo, quanto più divenne arrogante e superbo. Le semplici buche fangose della palude, dove aveva sempre vissuto nascosto, ora non gli piacevano più, perciò aveva preteso che gli altri animali gli costruissero un palazzo vero di fango e pietra, un palazzo con tante stanze, scalinate e saloni degni di un re. Poi cominciarono i capricci. Orbene, or dunque, e cra cra cra, io, Sapo Pipa Cururu, sovrano malvagio della foresta, desidero, voglio ed esigo un paio di scarpe che mi riparino dalla pioggia e dall'umidità, ovviamente. E per domani voglio pure la pelliccia dell'orsetto Fiote de Ursu Coati. Perché tenere i miei piedi al caldo, ecco perché. Altrimenti, sbadabam, io qui vi scatenerò il diluvio. Fiote de Ursu Coati fu presto avvisato dai suoi amici, ma non sapeva come salvarsi dal malvagio rospo Sapo Pipa Cururu. Il cuoricino dell'orsetto batteva forte forte dal terrore, i denti stringevano forte, tremava tutto, finché decise di fuggire dalla sua tana. Eh sì, corse, corse e scappò verso Segogna Yabiru, la cicogna grande, perché potesse aiutarlo. Sì, Segogna Yabiru, amica mia, amica grande, ti scongiuro, tu che conosci ogni cosa sui rospi, Sapo Pipa Cururu è davvero il potente figlio del sole? Sapo Pipa chi? Domandò la cicogna Segogna Yabiru, storgendo il grande becco. Sapo Pipa Cururu, il rospo mago, stregone dell'Amazzonia! Sapo Pipa Cururu! Quel rospo lo conosco bene, assicuro, è da tanto tempo che gli presto occhio. La cicogna grande, divertita, si fece raccontare l'intera storia. Ogni tanto, durante il racconto, scoppiava a ridere, battendo il becco con gusto. Bene, bene, disse la cicogna grande quando l'orsetto ebbe terminato la storia. Andiamo a cercare quel grasso, grasso e tondo, tondo figlio del sole. E si incamminarono. E cammina, cammina. Fiote de Ursu Coati aveva gambe troppo piccole rispetto alle gambe lunghe della cicogna Segogna Yabiru, ma riuscì comunque a starle dietro. Appena Sapo Pipa Cururu li vide arrivare, il povero rospo si sentì mancare il respiro. Cosa volete da me? Chiese il rospo tutto tremante. Cosa vogliamo? E che vogliamo secondo te? Mangiarti vogliamo! Mangiarti, divorarti mi sembra chiaro, no? È una vita che ti aspetto, che ti do la caccia! Rispose la cicogna grande. Mangiarmi? Mangiarmi? Mangiarti, sì! Mangiarmi? Strabuzzò gli occhi grandi il mistero rospo. Ma vattene via! Io sono il figlio del sole Se non mi ubbidisci, invocherò la pioggia con la mia potente magia perché ti porti via. Vattene! E intanto, mentre parlava, il rospo cercava di scomparire nascondendosi nel fango. Vattene! O invocherò la grande pioggia! Il diluvio, chiamomi! Oh, bene, bene! Grazie, rospo! Un po' di pioggia mi laverebbe ben bene le piume! Rispose la cicogna, che se la rideva. Attenta, sai! Oh, cicogna grande! Io posso scatenare tutte le nubi nere che stanno lassù, lassù nel cielo! E annegherete tutte! Minacciò spaventato il rospo. Le nubi nere! E quali nubi nere? Dove stanno ste nubi nere? La cicogna grande e l'orsetto indicarono il cielo che filtrava attraverso le piante della palude ed era azzurro e limpido, sereno, e risero. E risero. Bada, sai che se mi gonfio gracido forte e chiamo la tempesta di pioggia. Ma la cicogna, con il suo lungo e forte becco, tirò fuori dal fango il rospo senza fatica, lo sollevò con un balzo, lo fece rotolare dentro il becco e così toccò all'orsetto Fiote de Ursu Coati raccontare agli altri animali della grande palude della foresta dell'Amazzonia come Segogna Yabiru, la cicogna grande, avesse ingoiato in un solo boccone quel grasso grasso tondo tondo e appetitoso Sapo Pipa Cururu, detto il figlio del sole. Avete ascoltato Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende, adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.paroledistorie.net